siamo qua, siamo con Costanza del Comitato Selma, che prossimamente effettuerà un viaggio di solidarietà insieme ad altri componenti del Comitato, un viaggio di solidarietà con campi Sahrawi. Ma prima di tutto gli chiediamo una sorta di carta d'identità di questo Comitato Selma. Buongiorno a tutti, la nostra associazione ha sede nel Chianti, è costituita dal 98. Inizialmente abbiamo seguito la questione Sahrawi appoggiando prevalentemente la loro lotta di libertà. Negli anni che passano, per noi e per loro, abbiamo anche aperto dei progetti più concreti e più vicini alla gente e continuiamo comunque a seguirli nel loro processo di ricerca della libertà. E appunto uno dei programmi, una programmazione del Comitato Selma è portare solidarietà direttamente nei campi Sahrawi, e prossimamente ci sarà uno di questi viaggi. Ci puoi dire qualcosa di preciso, Costanza? Sì, certo, il andare nei campi è fondamentale per capire e conoscere, perché non andiamo in Africa con lo spirito di aiutiamoli a casa loro. Andiamo con lo spirito, con il pensiero, con l'obiettivo di conoscere un popolo diverso da noi, che ci può insegnare tante cose e del quale riconosciamo gli obiettivi di lotta e di sviluppo che cercano. Questo prego, prego. Ci sarebbe da dire tante cose. Gli Sahrawi sono un popolo africano del Nord Africa, islamico, ma che ha subito, ancora sta cercando la libertà da quello che è il processo di decolonizzazione. Come sappiamo, l'Africa non ha ancora un'indipendenza vera e loro sono l'esempio più concreto, perché la loro richiesta di indipendenza è sospesa con continue risoluzioni internazionali che vedono sempre il veto della Francia. E infatti, tra l'altro, c'è questa caratteristica della, a proposito della situazione Sahrawi, in cui la propria indipendenza è negata non soltanto appunto da Stati europei, ma anche per l'oppressione di un altro Stato, in questo caso africano. Sì, il loro nemico numero uno è il Marocco, ma come ci dicono, il Regno del Marocco, che in questo momento occupa in maniera autoritaria e anche perseguitando e discriminando la popolazione Sahrawi. Ma sono ben consapevoli che la diplomazia internazionale che sovrasta anche a questa questione. Infatti i Sahrawi hanno sempre coltivato relazioni internazionali. I nostri comuni del territorio hanno dei patti di amicizia con loro che servono, che aiutano la popolazione a rivivere in questa situazione divisa da un muro di mine, chi sta nei campi rifugiati e chi sta nella zona occupata. E la nostra associazione con questi viaggi cerca di consegnare quello che raccoglie, di parlare con loro, di verificare i bisogni più concreti e anche di portare una testimonianza di sostegno. Ecco, parlavi di altri viaggi, appunto ce ne sono stati altri a cui tu stessa hai partecipato. Ci puoi dire qualcosa rispetto agli altri viaggi e, avendoli visti direttamente, diciamo, nella loro quotidianità, ecco, un po' qual è la loro quotidianità, la formazione di cooperative, il modo con cui resistono sia all'occupazione del proprio territorio e anche diciamo un territorio di per sé, seppur bellissimo, anche un po' ostile, ecco, da questo punto di vista. La condizione ambientale in cui sono è dei campi profughi, è in una zona dell'Algeria che è deserto del Sahara, dove è abbastanza, è difficile vivere, però, e poi sono obbligati, in quanto rifugiati, a stare in quel punto. Quello che si incontra andando ai campi Sahrawi è una repubblica in esilio, cioè la capacità di questo popolo, lì ci stanno 200.000 persone ormai da più di 40 anni, hanno organizzato una repubblica in esilio, un luogo dove si può incontrare. Cosa vuol dire essere popolo e avere un'identità che cercano di mantenere, e dove si vive in maniera civile. La solidarietà è la regola di vita tra tutti. Quando noi arriviamo col miele, questo viene diviso, tutti i vicini vengono a prendere un bicchiere perché il miele gli serve per fare le medicine per i raffreddamenti, eccetera, per esempio, no? Le donne si sono organizzate in cooperative, lavorano con quei pochi materiali che ci sono, tappeti o cuscini o altre, fanno il couscous è fatto a mano, e le cooperative sono una realtà di gestione della vita quotidiana, cioè sono piccoli gruppi e hanno scelto una gestione civile della loro società, della loro realtà attuale. Poi ci sono le scuole, andiamo nelle scuole, cerchiamo di realizzare uno scambio di corrispondenza tra i nostri ragazzi e i ragazzi Sahrawi, sono a scuola fino a 16 anni e dopo diventa una cosa difficile, e solo per alcuni è permesso continuare a studiare se accedono a dei progetti. Ci sono dei piccoli dispensari e insomma troviamo non solo la difficoltà di vivere in quell'ambiente, in quella situazione quasi di prigionia, ma troviamo un esempio di civiltà. Quindi una sorta di repubblica proprio in esilio, ma che nello stesso momento la cui gestione sotto molti aspetti è un'organizzazione dal basso, ecco. Sì, tutti sono partecipi, anche le persone più semplici. Una volta mi sono trovata davanti alla mamma di una bambina che dice: ah, oggi è incaricata di distribuire le medicine. E questa persona non sapeva neanche leggere, no? Dico: ma alla figlia, dico, ma come fa che non conosce? Ma è importante che abbia un compito, gli danno i nomi delle persone che hanno bisogno, gli porti, consegnano delle medicine, già sa a chi le deve dare. E ecco, ognuno ha un compito. Gli anziani che hanno fatto l'esodo negli anni 80 hanno il compito di trasmettere la testimonianza, la storia, sono considerati persone importantissime e così via. Insomma, i campi sono organizzati in maniera che tutti siano responsabili di quello che fanno e della loro vita collettiva. E ci sentiamo un pezzo musicale, appunto, di una più famosa, se non la più famosa cantante Sahrawi, Maria Marsan. La ilaha illallah. Eccoci qua, dopo il pezzo musicale, siamo ancora con Costanza e appunto prima ha parlato degli anziani che tramandano questa storia del popolo Sahrawi, ecco, gli chiediamo un po' i falsi principali di questa storia del popolo Sahrawi. Allora, la storia inizia durante la colonizzazione spagnola, che la Spagna nell'Ottocento si è presa quel pezzo di deserto che si affaccia sull'Atlantico, importante per il mare, importante per il verde, per la possibilità di coltivare, e ci sono delle miniere, per ora solo di fosfati, ma è sicuramente un sotto importante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale i popoli africani hanno iniziato a organizzarsi per chiedere l'indipendenza riconosciuta dall'ONU. I Sahrawi uguale, negli anni 60 avevano fondato il Polisario, il Fronte di Liberazione, che ancora è il rappresentante più importante e riconosciuto sia dai Sahrawi che dalla comunità internazionale, e hanno chiesto di poter fare il referendum di indipendenza. La Spagna, il Tribunale Nazionale hanno dato l'ok, però la Spagna invece, che era in un momento difficile per la morte di Franco nel 75, fa un accordo col Marocco e la Mauritania, che invadono il territorio e fanno guerra tra loro. I Sahrawi in quel momento sono occupati con l'esodo, perché ci sono state due marce verdi, i marocchini che sono stati portati nel Sahara occidentale, e la guerra stessa ha costretto l'esodo verso l'Algeria che li ospita. Poi è iniziata, la Mauritania si è ritirata, è iniziata una guerra tra il Marocco e il Polisario, una guerra che è stata, diciamo, confermata nel 91 con un accordo gestito dall'ONU. Questo accordo di tregua è quello che ha stabilito una piccola parte in mano e liberata dal Polisario, divisa dalla parte occupata dai marocchini con un muro di mine. Questa situazione è immobile dal 91, cioè tutti gli anni viene stabilita, viene fatta una risoluzione, viene espressa una risoluzione dell'ONU che riconosce il diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi come popolo legittimo di quel territorio, ma poi non si realizza, e questo in gran parte anche per tutti gli interessi economici. Per esempio la Comunità Europea continua a fare accordi di pesca o di sfruttamento turistico del territorio col Marocco, che vengono regolarmente contestati dalle associazioni, dal Polisario, ma di fatto lasciano una situazione immobile e sospesa nell'aria, con nessuna decisione risolutiva. Attualmente il Marocco si tiene quel pezzo di terra, lo sfrutta, e la comunità internazionale ha un atteggiamento ambiguo, perché prima fa gli accordi, poi li discute, poi magari torna indietro, poi si ritorna, e niente. Sono un piccolo popolo che resiste, e i giovani chiedono di ritornare alle armi, questo per ora non avviene, però sono pronti, l'esercito è schierato, e la situazione così difficoltà che diciamo, di cui ne fanno carico tutta la popolazione, sia quella sotto l'occupazione sia quella nei campi profughi. Ecco, prima di chiederti particolari maggiori rispetto al viaggio prossimo, ti vorrei anche chiedere, in questa situazione ci sono anche arresti, prigionieri politici nelle carceri marocchine. Molti, specialmente giovani, vengono imprigionati e senza accuse precise, solo per avere tirato fuori la bandiera Sahrawi o aver manifestato per la strada. Negli anni passati subivano molte torture, anche isolamento per tanti anni. Ultimamente c'è più possibilità di comunicazione, ci sono siti e associazioni che seguono questi episodi, e quindi anche da parte marocchina c'è un pochino più di... sono costretti a rispettare le regole. Ecco, questi giovani sono imprigionati senza accuse vere, solo appunto per aver tirato fuori la bandiera. Ci sono associazioni che chiedono attenzione su questo, ecco. Ora, ritornando al viaggio prossimo, partite il 23, quindi tra pochi giorni, come si svolge il viaggio? Allora, questo viaggio è un viaggio importante perché accompagnerò 5 giovani volontari della nostra associazione e penso che sarà anche per loro 5 un'esperienza positiva. Portiamo materiali che abbiamo raccolti finalizzati a sostenere le attività dei campi, cioè materiale scolastico per le scuole, filato, lana, aghi, bottoni e quant'altro per le cooperative delle donne. E poi portiamo alimenti per la celiachia, perché è molto diffusa per un'alimentazione disorganica che c'è, e i fondi che portiamo appunto li distribuiremo in parte ad alcune famiglie che hanno minori disabili e che quindi hanno situazioni immaginate di grande difficoltà. Tutti gli anni le visitiamo, gli portiamo un pacco e poi incontreremo i governatori delle province, i sindaci dei comuni, e quest'anno c'è anche in questa settimana la maratona, cioè una manifestazione internazionale riconosciuta da un punto di vista sportivo e a cui partecipano molte persone, dice 700. Cioè fanno una maratona nel deserto, fanno? Sì, sì, fanno una maratona che già da diversi anni, che è legata a un suo progetto di solidarietà. Noi non facciamo la maratona, però sì. E poi c'è anche la maratona dei bambini, a cui invece parteciperemo organizzando una squadra di una scuola. Va bene. Senti, ma fa... quanti sono? 10 giorni. Parlare di province, governatori, quindi sono organizzati in questo senso qui, seppur in esilio. Sì, sì, c'è la Repubblica, poi 4 province con il governatore e il suo governo che viene eletto, non so, ogni 4 anni, 3-4 anni, non mi ricordo, e ogni provincia comprende 5-6 comuni di circa 5.000 abitanti ogni comune, con il suo governo, col sindaco, il suo consiglio. A livello comunale sono quasi tutte donne, la governatrice di Auxerre è una donna, e poi ci sono le organizzazioni delle donne. Giusto, quest'anno partecipiamo anche al congresso della UNMS, l'Unione Nazionale Mujeres Sahrawi. Abbiamo una delega della rappresentanza in Italia e questo sarà un grande onore per noi. da quello che stai dicendo c'è una partecipazione femminile molto importante alla vita pubblica. Sì, la partecipazione delle donne è importante ed è riconosciuta anche ora dopo tanti anni. Inizialmente, ovviamente, quando c'era la guerra, le donne si sono fatte carico di tutto, di costruire le casette, di tirare sulle tende, di qualsiasi cosa. Ma anche ora, dopo 40 anni, sono presenti attivamente nella vita dei campi, non sono relegate da parte, non si vedono, si incontrano, sono responsabili oppure mamme, nonne. E niente, non è l'unica, non sarà l'unica iniziativa del Comitato Selma, ecco, come, cosa pensate di fare in futuro, come proseguirà l'attività dell'associazione e anche come si può fare per contattarvi, ecco. Allora, la vita dell'associazione proseguirà sicuramente a sostegno finché la questione non sarà definita. Come? È una bella domanda, perché oggi come piccole associazioni siamo in grande difficoltà. Speriamo che nascano delle reti, dei coordinamenti a livello più alto per essere più efficaci e più significativi. Come contattarci? Abbiamo un sito un po' fermo a qualche documento passato, però è sempre il nostro sito www.comitatoselma.it, dove ci sono i nostri dati, dove c'è un po' la nostra storia, non è sempre aggiornato, ma è quello. Comunque ci saranno anche ulteriori indicazioni come contattarvi. Sì, certo, poi organizziamo periodicamente delle iniziative non solo di raccolta fondi ma anche di report e di informazione. E di informazione. Saremo volentieri di nuovo all'Emerson con una bella serata. Questo perché appunto c'è stata una iniziativa CSA Nestemerso e tra l'altro in seguito all'iniziativa c'è stato l'interesse da parte di alcuni, in particolar modo da alcuni muralisti, hanno fatto un bel murales al CSA Nestemerso. Che buon viaggio, ecco. Grazie. Grazie, sicuramente. Un'avventura no. Però un momento di conoscenza. Certo. Non è un viaggio d'avventura, è un viaggio di esperienza che consiglio chi riesce a farlo, si imparano tante cose. Quindi ringraziamo Costanza per la sua disponibilità. Grazie a voi. Senza frontiere. Vediamo, ha cambiato leggermente l'orario, il lunedì alle 14 e poi in replica il mercoledì e il giovedì della stessa settimana. Su Radio Wombat la potete ascoltare in streaming su AM1359 potete anche riascoltare i podcast di Senza Frontiere, i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, la pagina podcast da cui potete riascoltare o scaricare il podcast. Ciao ciao! Ciao ciao!